il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Orzo, lievito, luppolo e acqua, ovvero birra. Di questo parliamo oggi al quadrifoglio, ma anche di una birra particolare, la prima certificata a chilometri zero del Veneto. Viene prodotta dal birrificio Antoniano in provincia di Padova, ma gli ingredienti sono coltivati in tutta la regione. Michele Vecchiato è uno dei titolari del birrificio Antoniano. Perché una birra a chilometri zero? Perché nel Veneto abbiamo delle materie prime eccellenti per fare birre meravigliose. Quindi abbiamo pensato, perché non utilizzare proprio quelle del nostro territorio per fare una birra eccellente per tutti i veneti. A noi è sembrata una cosa piuttosto normale. Normale, però avete dovuto andare alla ricerca delle materie perché in te non si trovavano più. Ma questo è anche il lato bello, no? Il lato bello della ricerca, cioè il far ritornare in vita quello che era una tradizione che fino a 50 anni fa c'era. Non era stato perso ancora nulla, quindi è bastato scavare leggermente sotto la crosta dura e dal terreno è venuto fuori tutto, dalla gente che si ricordava è venuto fuori tutto. La birra, abbiamo detto, si fa di orzo, lievito, luppolo e acqua. Vediamo allora i quattro ingredienti. L'orzo da dove arriva? L'orzo arriva dalla campagna veneta qui intorno a Padova, per quella a chilometri zero arriva proprio nel raggio di 7 chilometri. Il luppolo è coltivato nel raggio di 7 chilometri, il luppolo arriva da Scorzè, quindi anche quello in linea d'aria sono una quindicina di chilometri. I lieviti sono lieviti che abbiamo sviluppato e che stiamo provando adesso a verificare con questi con Veneto Sviluppo, fatti una ventina di chilometri da qua con Veneto Sviluppo, un laboratorio di Veneto Sviluppo. L'acqua dell'Etra che noi lavoriamo e togliamo ovviamente gli additivi di potabilizzazione tipica dell'acquedotto, la riconduciamo al tipo di acqua con i minerali che ci servono per fare quel tipo di birra. La birra sta vivendo una seconda vita, forse oggi, perché si stanno diffondendo anche nel Veneto tantissimi microbirrifici, ma anche gente che si fa proprio i kit per farsi la birra in casa. Cosa ne pensate voi, che siete una birra artigianale e industriale allo stesso tempo? Questa è una domanda che ci viene fatta abbastanza spesso, perché ovviamente è una domanda che chiunque osservi il mercato si fa. Però noi rispondo con un esempio. Se la marea è bassa, quali barche navigano? Nessuna. Se la marea è alta, tutte le barche navigano. Allora, se la conoscenza, la volontà, la voglia di scoprire la birra, gli amatori della birra, i consumatori della birra sono tanti, ce n'è per tutti. Bene, chiunque ricerca e fa prodotti nuovi, tanto meglio, aiuta il mondo della birra. La qualità però non è sempre la stessa. Per fare una birra di qualità che cosa servono? Gli ingredienti innanzitutto? Gli ingredienti sì, di cui abbiamo parlato prima e ce ne sarebbe da parlare ancora molto. Quello che conta moltissimo è la conoscenza teorica, la conoscenza pratica su come fare la lavorazione e la tecnologia per applicare queste conoscenze. Un laboratorio molto importante che certifica i risultati, la continuità che il prodotto sia sempre quello. Quindi sono un mix di materie prime che aiutano questi ambiti, che aiutano a realizzare un prodotto eccellente. Certamente la ricetta fatta in casa va benissimo, è buonissima, soprattutto per chi la fa e per gli amici, è un gusto, è un piacere. Ma garantire che il prodotto sia stabile per tutti coloro che intendono utilizzarlo, è un'altra cosa, servono queste componenti. Quello che viene spesso trascurato è proprio l'aspetto di qualità e controllo che dà un laboratorio. Però un laboratorio si intende laboratorio come macchine, laboratorio come strumenti, laboratorio come persone, che devono essere dei birrai con una formazione personale propria, apposita. Molto spesso si tende a contrapporre, soprattutto in Italia, il consumo di vino e il consumo della birra. Però qui stiamo parlando di birra di artigianale, birra, di, birra comunque di qualità, e anche nel vino si è andati un po' ultimamente nella direzione di un consumo di qualità, magari meno, scala il consumo in Italia pro capite, però maggior qualità. Le due cose si stanno sostenendo a vicenda, cioè la birra artigianale sta vivendo questa crescita forse anche perché c'è un'attenzione nel mondo del vino ad un prodotto più di qualità e meno di quantità? Ma premesso che la birra e il vino non sono concorrenti, perché sono occasioni di consumo diverso, e anch'io sono un bevitore di vino, certamente come quello della birra, insomma, però io non, nel mio piccolo vivo il momento del vino e vivo il momento della birra. In questo momento non c'è ancora una, come si dice, un aiutarsi vicendevolmente sulla produzione di qualità. Ritengo che sia una questione di novità, di mercato ancora non maturo, ma siccome entrambi si lavora per la valorizzazione delle materie prime del territorio e delle specificità del territorio, credo che presto o tardi si arriverà a fare un ragionamento in comune. Vedo che ci sono dei corsi ultimamente, ho letto la pubblicità, come degustare birra e vino. E beh, questo è già il via a un ragionamento parallelo. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco anche per capirne qualcosa di più di come degustare una birra. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Never let me give up. All the nights and the fights and the blood and the breakups. You're always there to call up. I'm a pain, I'm a child, I'm afraid. But yeah, you understand. Yeah, like no one can. I know that we don't look like much, but they don't stand a chance like us. 16, and you never even judged me. Matter of fact, always thought you were too cool for me. Sitting there in the caravan, all the nights we've been drunk on the floor. But yeah, you understand. Yeah, like no one can. We both know what they say about us, but they don't stand a chance because when I'm with you, when I'm with you, I'm standing with an army. I'm standing with an army. When I'm with you, when I'm with you, I'm standing with an army. I'm standing with an army. Dark times, you can always find the bright side. I'm amazed by the things that you would sacrifice just to be there for me. How you cringe when you sing out of tune, but yeah, it's everything. So don't change a thing. We both know what they say about us, but they don't stand a chance because when I'm with you, when I'm with you, with an army, standing with an army, standing. torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di birra, in particolar modo della birra chilometri zero prodotta dal birrificio Antoniano. Abbiamo come ospite uno dei titolari, Michele Vecchiato. Passiamo ad un argomento pratico: come degustare bene un buon bicchiere di birra? Allora, un buon bicchiere di birra segue il criterio di degustazione un po' come quello del vino, no? Prima di tutto un bicchiere di birra si beve con gli occhi. Il bianco della schiuma, la tipologia delle bolle, più fini e piccole sono, migliore è sicuramente la qualità della birra, il colore, la brillantezza, il calore del colore, gli occhi. Quindi prima di tutto la birra si beve con gli occhi. Poi la si beve col naso, perché quando avviciniamo il bicchiere al naso, immediatamente i profumi che ne escono o ci suggeriscono una piacevolezza oppure no. Sappiamo bene che dal punto l'olfatto è uno di quei sensi primordiali che ci fanno capire subito se un alimento può essere buono oppure no. È chiaro che anche il profumo della birra immediatamente porta al cervello delle sensazioni positive o negative sul prodotto. Alla fine la bevuta vera e propria, il palato dove la lingua gioca, come sappiamo, un aspetto sostanziale, è imparare attraverso la propria lingua a distinguere le caratteristiche, le specificità della birra. È un lavoro lungo ma estremamente appagante, tanto più che il conoscitore della birra ama le birre leggere ma con tante sfaccettature. Colui che si avvicina alla birra preferisce i prodotti più pieni, più corposi, più magari alcolici, più vicini al vino. Ecco, saper cogliere le sfumature anche nelle birre più leggere, questo è chiaramente un passo molto avanti nella conoscenza del prodotto. E quindi si può lavorare sugli abbinamenti, così come si fa per il vino, quindi non solo birra pizza, ma si può fare vino pizza, ma anche birra con invece primi, secondi ed altri, e varie pietanze che mangiamo normalmente. Sì, in realtà aggiungo che questo è stato sdoganato molti anni fa. Sono già una decina d'anni che in genere si sta lavorando, ma anche il consumatore stesso ha scoperto che si può lavorare sugli abbinamenti di ogni tipo di piatto con un tipo di birra. E noi italiani siamo molto abili in cucina, abbiamo dei sensi molto sviluppati, siamo molto bravi a fare questi abbinamenti ed in effetti lo si vede tutti i giorni, sia quando si frequentano gli amici bevendo birra e mangiando, ma anche nei media, nella televisione e quant'altro, si sta parlando molto di questi abbinamenti, insomma. Ultima domanda: la birra a chilometri zero si chiamerà La Veneta e si troverà dove? Solo nel Veneto? Allora, la birra a chilometri zero è solo per il Veneto. Naturalmente il birrificio Antoniano fa moltissime altre specialità che si trovano un po' dovunque, anche all'estero, però la birra a chilometri zero, La Veneta, si troverà solo nel Veneto. In particolar modo ci piacerebbe andare a coinvolgere nel progetto tutti gli agriturismi, tutta la filiera agricola, anche della ristorazione, dell'ospitalità e di tutti quei attori del mercato, non lo so, i ristoranti, le bottiglierie e quant'altro, che amano proporre un prodotto a chilometro zero della terra veneta. Grazie. Ed ora andiamo a chiudere la trasmissione con due notizie. La Giunta regionale ha autorizzato l'azienda Veneto Agricoltura a procedere alle assunzioni della manodopera agricola e forestale per l'anno 2016. Si tratterebbe dell'assunzione di 47 persone da inserire in varie aziende site in quasi tutte le province venete. Non appena il bilancio dell'azienda Veneto Agricoltura in via di approvazione sarà completamente operativo, e si prevede entro il mese di aprile, i contratti di assunzione saranno perfezionati. Parliamo ora di mais e trevigiano. Secondo il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, dal 2013 a oggi è calata di quasi un terzo, con previsioni di ulteriore ribasso, la produzione di mais nella provincia di Treviso. La superficie investita a mais è passata dai 41.000 ettari del 2013 ai 25.000 attuali. Una crisi che ha effetto del continuo abbassamento del prezzo del cereale, sceso dai 210 agli attuali 160 euro per tonnellata. La crisi della cerealicoltura, d'altra parte, è diffusa in tutto il territorio nazionale e si è abbattuta non solo sul mais, ma anche su altre colture come la soia. Il mais è una materia prima fondamentale per tutto il sistema agricolo, ha commentato il presidente del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, Fulvio Brunetta. non solo per la polenta, ma per l'industria zootecnica in generale, che lo utilizza ad esempio per l'alimentazione degli animali. Oggi purtroppo molti allevatori sono costretti ad acquistare mais all'estero perché non riescono a reperire il prodotto nel nostro territorio. Tutto questo crea una questione di sicurezza perché carne, latte e formaggi possono provenire da animali alimentati da prodotti di cui non si possono garantire metodi e qualità di produzione. E c'è anche una questione di perdita di un patrimonio tecnico e di conoscenze dei nostri agricoltori. Le cose da fare sono molte. In primo luogo, per il consorzio agrario, naturalmente intervenire con politiche di sostegno al reddito delle aziende in questa difficile congiuntura per ridare slancio all'attività dei maiscoltori. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.